ti tengo la mano e penso a te che mi riesci a guardare senza occhi e lacrime amare. Se potessi far tornare indietro il mondo, farei tornare poi senza altro te per un attimo di eterno e di profondo.